Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 2 Disceso lo Spirito Santo nel dì della Pentecoste sopra gli Apostoli, i Giudei restano ammirati, come essi parlino in tutte le lingue. Pietro confuta quei, che dicevano, che egli no erano ubriachi, citando tra le altre cose la profezia di Gioele, e con punti i Giudei, udita l'esortazione di Pietro, si convertono circa 3.000 persone a Cristo. Perseverano insieme nella dottrina degli apostoli, nella frazione del pane, e nell'orazione, avendo tutte le cose in comune. Sul finire dei giorni della Pentecoste stavano tutti insieme nel medesimo luogo, e venne di repente dal cielo un suono, come se levatosi fosse un vento gagliardo, e riempie tutta la casa, dove abitavano. E apparvero ad essi delle lingue bipartite come di fuoco, e si posò sopra ciascheduno di loro. E furono tutti ripieni di Spirito Santo, e principiarono a parlare vari linguaggi, secondo che lo Spirito Santo dava ad essi di favellare. Ora abitavano in Gerusalemme degli ebrei, uomini religioso, di tutte le nazioni, che sono sotto del cielo. E divolgatasi una tal voce, si raunò molta gente, e rimase attonita, perché ciascheduno gli udiva parlare nella sua propria lingua. Essi stupivano tutti, e facevano le meraviglie, dicendo, non sanno egli no costoro, che parlano, Galilei tutti quanti? E come mai abbiamo udito ciascheduno di noi il nostro linguaggio, nel qual siamo nati? Parti, e Medi, e Elamiti, e abitatori della Mesopotamia, della Giudea, e della Cappadocia, del Ponto, e dell'Asia, della Frigia, e della Panfilia, dell'Egitto, e dei paesi della Libia, che è intorno a Cirene, e pellegrini romani. Tanto giudei, come proseliti, cretensi ed arabi abbiamo udito costoro discorrere nelle nostre lingue delle grandezze di Dio. E tutti si stupivano, ed eran pieni di meraviglia dicendo l'uno all'altro, che sarà mai questo? Altri poi facendosi beffe dicevano, sono pieni di vino dolce. Ma levatosi su Pietro con gli undici alzò la voce, e disse loro, uomini giudei, e voi tutti, che abitate Gerusalemme, sia noto a voi questo, e aprite le orecchie alle mie parole. Impero che non sono costoro, come voi vi pensate, ubriachi, mentre è la terza ora del dì, ma questo è quello, che fu detto dal profeta Gioele, avverrà negli ultimi giorni che io spanderò il mio spirito sopra tutti gli uomini, e profeteranno i vostri figliuoli, e le vostre figliuole, e la vostra gioventù vedrà delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E sopra i miei servi, e sopra le mie serve spanderò in che giorni il mio spirito, e profeteranno, e farò dei prodighi su in cielo, e dei segni giù nella terra, sangue, e fuoco, e vapore di fumo. Il sole si cangerà in tenebre, e la luna in sangue, prima che giunga il giorno grande, e illustre del Signore. E avverrà, che chiunque avrà invocato il nome del Signore, sarà salvo. Uomini israeliti, udite queste parole, Gesù Nazareno, uomo, cui Dio ha renduto irrefragabile testimonianza tra di voi per mezzo delle opere grandi, e dei prodighi, e dei miracoli, i quali per mezzo di lui fece Dio sugli occhi vostri, come voi stessi sapete, questi per determinato consiglio, e prescienza di Dio essendo stato tradito, voi trafiggendolo per le mani degli empi lo uccideste, cui Dio risuscitò, sciolto avendolo dai dolori dell'inferno, siccome era impossibile, che da questo fosse egli ritenuto. Impero che di lui dice Davide, io antivedeva sempre il Signore dinanzi a me, perché egli sta alla mia destra, affinché io non sia commosso. Per questo rallegrossi il mio cuore, ed esultò la mia lingua, e di più la mia carne riposerà sulla speranza, che tu non abbandonerai l'anima mia nell'inferno, né permetterai, che il tuo santo vegga la corruzione. Mi insegnanti le vie della via, e mi ricolmerai di allegrezza con la tua presenza. Fratelli, sia lecito di dire liberamente con voi del patriarca Davide, che egli morì, e fu sepolto, e il suo sepolcro è presso di noi sino al dì d'oggi. Essendo egli adunque profeta, e sapendo, che Dio promesso aveva agli con giuramento, che uno della sua stirpe doveva sedere sopra il suo trono, profeticamente disse della risurrezione del Cristo, che egli non fa abbandonato nell'inferno, né la carne di lui vide la corruzione. Questo Gesù lo risuscitò e Dio, della qual cosa siamo testimoni tutti noi. Esaltato egli adunque alla destra di Dio, e ricevuta dal Padre la promessa dello Spirito Santo, lo ha diffuso, quale voi lo vedete, e lo udite. Impero che non salì Davide al cielo, eppure egli disse, ha detto il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, sino a tanto che io ponga i tuoi nemici scabello a tuoi piedi. Sappia dunque indubitamente tutta la casa di Israele, che Dio ha costituito Signore, e Cristo questo Gesù, il quale voi avete crocifisso. Udite queste cose, si compunsero di cuore e dissero a Pietro, e agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo noi fare? E Pietro disse loro, fate penitenza, e si battezzi ciascheduno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Impero che per voi sta la promessa, e per i vostri figliuoli, e per tutti i lontani, quantunque ne chiamerà il Signore Dio nostro. E con altre moltissime parole gli persuadeva, e gli ammoniva, dicendo, salvatevi da questa perversa generazione. Quelli adunque, che ricevettero la parola di lui, furono battezzati, e si aggiunsero in quel giorno circa 3.000 anime. Ed erano assidui alle istruzioni degli apostoli, e alla comune frazione del pane, e nella orazione. E tutta la gente era in apprensioni, e molti, segni, e miracoli si facevano dagli apostoli in Gerusalemme, e tutti stavano in gran timore. E tutti i credenti erano uniti, e avevano tutto comune. E vendevano le possessioni, e i beni, e distribuivano il prezzo a tutti secondo il bisogno di ciascheduno. E ogni giorno trattenendosi lungamente tutti d'accordo nel tempio, e spezzando il pane per le case prendevan cibo con gaudio, e semplicità di cuore, lodando Dio, ed essendo ben veduti da tutto il popolo. Il Signore poi aggiungeva alla stessa società ogni giorno gente, che si salvasse. Note, 2,12 punti sul finire dei giorni ec. Significa. Che era già passato lo spazio corrente tra la Pasqua e la Pentecoste, la qual festa era così denominata, perché celebravasi il 50° giorno dopo la Pasqua, e nella mattina del giorno 50° successe quello, che riferisce S. Luca. Era quel giorno della Pentecoste gran festa tra gli ebrei in memoria della legge in tal di ricevuta, e in quel di medesimo lo Spirito Santo scese sopra gli apostoli, e sopra gli altri fedeli per iscrivere nei loro cuori la nuova legge, compimento, e perfezione dell'antica. 2,22 punti e venne di repente dal cielo un suono, come se levatosi fosse un vento e questo suono era destinato a rendere attenti i fedeli alla discesa dello Spirito Santo, e a risvegliare la curiosità dei giudei, onde concorressero al luogo dove questo suono si udiva. E riempì tutta la casa, argomento, che dovea nella stessa guisa riempire tutto il mondo, pel quale dovea stendersi la Chiesa. 2,32 punti e apparvero ad essi delle lingue bipartite come di fuoco. Queste lingue rappresentavano, come la luce della verità predicata dagli apostoli accender dovea negli uomini il desiderio, e l'amore delle cose celesti, sembra anche aver voluto Dio con questo simbolo farci intendere, che se la division delle lingue fatta già per punire la superbia degli uomini servì per dispergerli, e spararli gli uni dagli altri, il dono delle lingue servir dovea riunirli tutti in un solo popolo mediante il Vangelo. E si posò sopra ciascheduno di loro. Il fermarsi che fece sopra le teste di ciascheduno de fedeli adunati questo fuoco celeste, indica, come la Chiesa sarebbe stata in ogni tempo assistita da questo stesso Spirito, dal quale fu congregata. 2,42 punti secondo che lo Spirito Santo dava ad essi di favellare. Conforme piaceva allo Spirito Santo di ispirargli a parlare or l'una or l'altra lingua. Alcuni interpreti hanno creduto che gli apostoli parlando in un sol linguaggio fossero intesi da tutti gli uditori, bencè di nazione e di lingua differenti, la qual cosa bencè non si nieghi, che possa essere talvolta accaduta, non di meno in questo luogo esse, Luca dice, che essi parlavano vari linguaggi. Vedremo in qual modo di questo stesso dono parli l'Apostolo nella sua prima lettera a che di Corinto. 2,52 punti abitavano in Gerusalemme ec. Oltre le altre ragioni, le quali potevano attirar di continuo a Gerusalemme un gran numero di giudei dispersi per tutto l'universo, una in questi tempi s'era la comune credenza, che prossima e imminente fosse la venuta del Messia. Il sagro storico però dicendo che questi erano uomini religioso, ha dato motivo a molti di credere che fossero gentili di origine, ma convertiti al giudaismo, non sembra però verisibile che sì gran numero di persone di tante nazioni fosser tutti proseliti. E quantunque questa maniera di parlare si adopri talora nelle scritture per significare i proseliti, nulla di meno può anche prendersi nel senso più semplice, come pare, che la stessa espressione vada intesa, cap. 8. 2. Impero che è una stessa parola greca quella, che in questo luogo la Vulgata ha tradotto con la voce religioso, e nel detto cap. 8. Con quella di timorati, vale a dire persone divote, e amanti della pietà, e adoratrici del vero Dio. 2,72 punti non sanellino. Galilei tutti quanti? Vale a dire di un paese di niuna cultura, e dove lo stesso comun linguaggio si parla assai male, come per lo più addiviene nei luoghi remoti dalla capitale. 2,92 punti elamiti. Nazione, che era di mezzo tra i Medi, e la Mesopotamia, la sua capitale era Elimaide. Della Giudea, ec. I giudei parlavano siriaco, o piuttosto caldaico, come anche i popoli della Mesopotamia, ma con dialetto molto diverso. Ed è da notarsi, che in tutto quel gran tratto dell'Asia, di cui sono nominati in questo versetto gli abitatori, eccetto pochissimi greci, tutto il rimanente era popolato da genti barbare, e di queste genti erano le 22 lingue, le quali parlava Mitridate. Vedi Strab. Lib. 12. Dell'Asia. Asia in questo luogo sia la regione di tal nome, che stendesi intorno alla Propontide. 2,12 punti de apostrofo paesi della Libia, che è intorno a Cirene. Onde dicesi Libia cirenaica, pellegrini romani, tanto giudei, come proseliti. Vale a dire nati in Roma o di stirpe ebrea, o gentili di origine, ma divenuti giudei di religione. Molti di questi proseliti erano in Roma in questi tempi, come rilevasi dagli scrittori di quella età. 2,13 punti altri poi facendosi beffe ec. Forse gli scribi, e i farisei, i quali bestemmiavano secondo il loro costume quello, che non intendevano. 2,14 punti ma. Pietro ec. Come a capo, e pastore del nuovo gregge a lui si apparteneva di prenderne la difesa, e di rintuzzare gli scherni degli avversari. 2,15 punti mentre è la terza ora del dì. L'ora terza dopo il levare del sole, la quale verrebbe a fare per noi le 9 della mattina, era il tempo destinato alla orazione, alla qual orazione andavano digiuni, e questa orazione della mattina durava sino alla sesta, che era l'ora del desinare. Ed era segno di intemperanza grande il mangiar la mattina avanti il mezzodì. Vedi Isai. V. 2. Ecclesiastico 10. 16. 17. Gli ebrei non facevano se non due pasti, a mezzogiorno, e alla sera. 2,17 punti avverrà negli ultimi giorni ec. Questi giorni sono i giorni del Messia, impero che aveva già detto il Signore per bocca dello stesso Gioele nello stesso capo 2. 23. Figliuoli di Sion esultate. E rallegratevi nel Signore Dio vostro, perché vi ha dato il dottore della giustizia, e questi giorni sono detti ultimi, perché concessi da Dio all'ingrata sinagoga per ravvedersi, e riconoscere il suo liberatore esaltato alla destra di Dio, e glorificato con la risurrezione da morte, e con la missione dello Spirito Santo, dopo i quali giorni rimanendo essa nella incredulità, null'altro dov'è aspettarsi, che la totale sua desolazione, e rovina. Sopra tutti gli uomini. Senza distinzione di ebreo, o gentile. E la vostra gioventù vedrà delle visioni, ecco. Immagini, o rappresentazioni mandate da Dio, visibili talvolta soli occhi della mente, talvolta anche agli occhi del corpo. Delle un, e delle altre sono frequenti gli esempi nei profeti, e anche in questo stesso libro. Sogneranno dei sogni ec. Sappiamo infatti, che di tali sogni, nei quali con interna locuzione, o illustrazione facea sentire alle anime la forza della verità, e l'efficacia della sua grazia, di tali sogni, dico, si servì il Signore per convertire moltissimi infedeli, e ciò accadea tuttora frequentemente anche a tempi di Tertulliano, come egli stesso racconta. 2,18 due punti e sopra i miei servi, e sopra le mie serve. Nell'ebreo è semplicemente, e sopra i servi, e sopra le serve senza il pronome. Il che manifesta più chiaramente, come lo Spirito Santo inonda dovea per così dire tutta quanta la Chiesa, comunicandosi anche alle persone più piccole, e abiette secondo il mondo. S. Luca ha seguito nella citazione di questo testo, come di altri, la versione dei 70, e ciò ha egli fatto, pers la detta versione era per le mani di coloro, per i quali scriveva, ma anche secondo la lezione dei 70, e della nostra Vulgata il senso è lì stesso, perché significa, che lo Spirito Santo sarà diffuso sopra ogni genere di persone, senza differenza non solamente di sesso, ma anche di condizione, e fino sopra i servi, e le serve, quando questi, e queste siano servi di Dio, e da Lui cerchino di piacere anche più che agli uomini. 2,19 22 punti e farò dei prodigi su in cielo, ecco. I prodigi descritti in questi due versetti sono quelli, che dovevano precedere la futura desolazione di Gerusalemme presa da Romani. Il giorno, in cui doveva succedere l'eccidio di quella infelice città, giorno grande e illustre, cioè memorabile per tutti i secoli, si chiama giorno del Signore, perché è uso della scrittura il dire giorni del Signore quelli, che sono contrassegnati o coi benefici, o coi castighi di Dio. 2,22 due punti Gesù Nazareno. Lo chiama col nome col quale erano soliti di chiamarlo, e i più per disprezzo. Cui Dio ha renduto irrefragabile testimonianza tra di voi per mezzo delle opere ec dichiarato da Dio suo figliuolo, e suo Cristo con argomenti evidenti, quali furono i miracoli senza numero da lui operati a vista di tutta Gerusalemme. 2,23 due punti per determinato consiglio, e prescienza di Dio essendo stato tradito. Il decreto di Dio riguarda la passione del Salvatore ordinata nei suoi eterni consigli per la riparazione del genere umano, la prescienza riguarda l'impietà dei nemici di Cristo, i quali secondo il bel detto di esse. Leone nell'esecuzione della loro scelleraggine servirono a disegni del Salvatore. In tal maniera l'Apostolo va incontro allo scandalo prodotto negli animi dei giudei dalla croce di Cristo. Dove la Vulgata dice traditum, il greco propriamente dice dato nelle mani, vale a dire consegnato non tanto da Giuda, quanto da Dio medesimo in vostro potere, onde volontariamente, e liberamente bevesse il calice datogli dal Padre suo. Per le mani degli empi. Per le mani di Pilato, e dei soldati romani costretti da voi a crocifiggere l'innocente. 2,24 due punti sciolto avendolo dai dolori dell'inferno. La voce inferno sovente nelle scritture significa lo stato di morte, e così porta il testo greco. Sciolto dai dolori di morte è lo stesso, che essere liberato, e renduto vincitore di morte dolorosa, e crudele. Un'altra interpretazione parimente letterale, e coerente sia al testo greco, come alla Vulgata sarebbe. Sciolti i dolori della morte, con che verrebbe a significarsi distrutta da Cristo la podestà, che esercitava la morte sopra gli uomini, mentre questa è dopo la morte, e la risurrezione del Salvatore non è più oggetto di dolore, e di affanno, ma di letizia pe buoni come passaggio ad una vita migliore ed eterna, nulla di meno le parole che seguono, meglio si adattano alla prima interpretazione. Siccome era impossibile, ecco, non poteva Cristo essere ritenuto sotto il dominio della morte, la quale non aveva alcun diritto sopra di lui, che era senza peccato. 2,25 Due punti di lui dice Davide. Gli ebrei erano persuasi che Davide era un'espressissima figura dell'aspettato Messia, onde non è meraviglia che esse Pietro dica francamente a suoi uditori che in questo, come in tanti altri luoghi dei Salmi, le parole di Davide sono parole di Gesù Cristo, in cui più letteralmente che nello stesso Davide si sono verificate. Io antivedeva sempre ec. In tutte le mie azioni, e in tutti i miei patimenti ebbi sempre dinanzi agli occhi la volontà del Signore, e l'amorosa e potente sua protezione. Sotto gli occhi di tal condottiere mi animai a combattere, e la pietosa assistenza di lui confortando in me il valore e le forze, quindi venne la mia costanza a fronte di tanti furibondi nemici. 2,27 Due punti Non abbandonerai l'anima mia nell'inferno. Anche in questo luogo la voce inferno intendesi o dello stato di morte, ovvero del sepolcro. E sovente nelle scritture è lo stesso il dire l'anima mia, che il dire me. Ne permetterai, che il tuo santo ec. Queste parole sono una dichiarazione delle precedenti, non abbandonerai me, il corpo mio nel sepolcro, ne vorrai, che il tuo santo sia soggetto alla putrefazione, si corrompa, e torni in polvere, come degli altri uomini avviene. Santo di Dio per eccellenza è chiamato anche nel Vangelo Gesù Cristo. 2,28 Due punti Mi insegnasti le vie della vita, ecco. Mi mostrasti la strada per giungere a nuova vita, vale a dire mi richiamasti alla vita, e ad una vita piena di contentezze ineffabili, delle quali sarò ricolmo dalla tua presenza nel cielo. 2,29 Due punti Sia lecito di dire liberamente con voi ec. Con molta grazia si insinua negli animi degli ebrei l'apostolo, volendo far loro conoscere come sì alte cose non potevano Davide applicarsi letteralmente. E il suo sepolcro è presso di noi ec. Davide morì, fu sepolto, e nel suo sepolcro si giacque, e soffrì la corruzione, Cristo morì, fu sepolto, ma non restò lungamente nel sepolcro, né sentì la corruzione. Di Cristo adunque, e non di Davide si parla in quel salmo. 2,32 punti Che uno della sua stirpe. Intendesi la Vergine, del seme di Davide, dalla quale nascer dovea il Cristo, il quale dovea come David regnare sopra il popolo di Dio, composto però non dei soli ebrei, ma ancor dei gentili. 2,32 punti Siamo testimoni tutti noi, che lo abbiamo non solo udito, e veduto, ma anche toccato. 2,33 punti E ricevuta dal Padre la promessa dello Spirito Santo. Ricevuta dal Padre la podestà di mandare lo Spirito Santo promesso da Lui a noi Suoi discepoli. Lo ha diffuso, quale voi lo vedete ec. Dai prodigiosi effetti, che opera in tutti noi. Lo vedete nella costanza, con la quale vi annunziamo le glorie del Cristo da voi crocifisso, nella dottrina, con la quale vi spieghiamo i più alti sensi delle scritture, lo udite nella varietà delle lingue, delle quali ci è stato conferito il dono dal medesimo Spirito. 2,34 Due punti Impero che non salì Davide al cielo. Se non salì al cielo Davide, non a lui, ma al Cristo risuscitato da morte furono dette dal Signore quelle parole del Salmo 109. Vedi Met. 22. 44, con queste prova esse. Pietro la divinità di Gesù Cristo. 2,362 punti Dio ha costituito Signore, e Cristo ec. Lo ha costituito Signore di tutte le cose dandogliene il dominio assoluto, e Cristo, cioè Re del popolo di Dio. 2,382 punti Nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, ec. Ricevete il battesimo, e con esso la remissione dei peccati meritata da Cristo con la sua passione, e con lo spargimento del suo sangue. Dov'è da osservarsi, che esse. Pietro non avendo in mira di portar qui la forma del battesimo prescritta già da Gesù Cristo, ma solamente di insegnare agli ebrei illuminati e convertiti, quello, che far doveano per esser salvi. Non è perciò meraviglia, che abbia solamente fatta menzione del nome di Cristo, e non ancora del Padre e dello Spirito Santo, perché quello, che maggiormente premevagli, si era di insegnar loro a riguardare Gesù Cristo crocifisso, come quel solo nome dato agli uomini per principio, e fondamento di lor salute. Riceverete il dono dello Spirito Santo. Ciò può intendersi, primo, della grazia, e dei doni interiori conferiti per mezzo del battesimo, e anche della confermazione, il qual sacramento nei primi tempi della Chiesa si amministrava insieme col battesimo. Secondo, può intendersi anche dei doni esterni concessi o tutti a ciascheduno, o a chi l'uno, a chi l'altro. 2,39 due punti impero che per voi sta la promessa. E per tutti i lontani. Lontani da Dio, dalla fede, e dalla salute erano i gentili, i quali dice Pietro dover esser chiamati anch'essi alla fede, e riceversi nella Chiesa. 2,41 due punti essi aggiunsero. Volsi intendere alla Chiesa, ossia a quella compagnia di 120 cristiani. 2,42 due punti ed erano assidui alle istruzioni e sembra che qui si adombrino le tre parti del sacrificio cristiano, l'orazione, l'istruzione, e la comunione del corpo del Signore, la qual comunione indubitatamente si intende per la frazione del pane. E di queste tre parti è stata sempre, ed è tuttora composta la messa. 2,46 due punti ogni giorno trattenendosi lungamente. Nel Tempio. Principalmente nelle ore destinate all'orazione, ed è da osservarsi, come quantunque facessero le loro adunanze or in questa, or in quella casa, non abbandonavano perciò le pubbliche adunanze, nel Tempio. E spezzando il pane per le case prendevan cibo con gaudio, e semplicità di cuore. Ragion vuole, che moltiplicati i fedeli, in diversi luoghi questi si adunassero. Ognuno poi sa, che alla Eucaristia succedevano i conviti di fratellevole carità detti agape, nei quali non la sontuosità dell'apparato, né la squisitezza delle vivande, ma la pura e schietta benevolenza di Santo Gaudio ricolmava i fedeli.